Emilia Pardo Bazán è stata una ed è riconosciuta oggi come una delle più grandi scrittrici militanti femministe spagnole. Nacque alla Corugna, era gallega, quindi era un'aristocratica, lei era una contessa gallega, cioè della Galizia, nel 1851, nella seconda metà, quindi dell'Ottocento. Mise sempre l'istruzione sopra a tutto quello che lei faceva, per lei era la cosa più importante. Ebbe la fortuna di poter studiare perché aveva accesso alla biblioteca di famiglia. Era una donna molto indipendente, forte, e poté contare sull'appoggio paterno, come altre grandi donne che abbiamo finora studiato, come Matilde, per esempio, di Canossa, no, chiamiamola Matilde di Toscana, perché lei era granduchessa di Toscana, quindi era più giusto, e Cristina e Pizzana, entrambe furono sostenute paradossalmente dai padri, e vedremmo anche Sibilla Aleramo, fino a un certo periodo della sua vita fu sostenuta dal padre, contro la volontà delle madri, che invece purtroppo a loro volta erano vittime dell'educazione patriarcale, quindi ritenevano di non contribuire a fare il bene delle loro figliuole, permettendo che fossero istruite, cioè pensavano che avrebbero avuto, queste donne erano in buona fede, queste mamme, che le figliuole troppo istruite non sarebbero riuscite a trovare marito, che per loro era la cosa fondamentale. Io ho capito bene questo passaggio quando ho scritto, non so se alcuni di voi lo sanno, ho scritto il libretto di un'opera su Christine de Pizan. Mentre scrivevo il libretto su Christine è arrivata sua madre e io l'ho quasi tutto canalizzato, questo libretto, e ho proprio canalizzato un duetto, sì, anche perché se non l'avessi canalizzato non sarei mai riuscita a scrivere un libretto d'opera, io non l'avevo mai fatto prima, per cui è venuto praticamente da solo. E ho canalizzato il duetto tra Christine e sua madre e venivano fuori le parole da sole, mentre io scrivevo mi rendevo proprio conto che la madre diceva: non troverai mai marito se sei troppo istruita, se sei troppo intelligente, perché nessun uomo vorrà una donna che lo contesta anziché preparargli la minestra, una donna che discute con lui anziché intrattenere i suoi amici. Tutto questo usciva in canalizzazione mentre io scrivevo. E notavo che la madre di Christine non era cattiva, lei era davvero convinta che sarebbe stato male per la figlia istruirsi troppo. Quindi abbiamo tutta questa serie di madri, e non sono le uniche, ce ne sono state altre, che invece di sostenere le figlie per aiutarle a studiare, le cercavano di ostacolarle. Per fortuna queste donne avevano i padri però che le sostenevano, per lo più erano donne queste... Emilia Pardo Bazán era contessa, Matilde era gran contessa, Christine de Pizan non era nobile, ma il padre era un insegnante, era stato docente universitario all'Università di Bologna, quindi erano sicuramente donne che avevano un padre intelligente e colto e ricco. Nel popolo questo non sarebbe mai successo. Per contro ci sono poi state anche madri che invece hanno coinvolto le loro figlie nella loro militanza, e io via via le ho inserite nell'invocazione alle antenate. Se vi siete accorte, pian piano sto inserendo le madri, le figlie, le sorelle per ricreare il cerchio. All'inizio erano singole, era solo la personaggia, adesso via via stanno arrivando le sorelle, le madri, le figlie che hanno sostenuto, come le due figlie di Marie Curie, le tre figlie di Emmeline Pankhurst, la sorella di Coco Chanel, la sorella di Emily Flöge, quindi perché sono figure importanti, anche se non meno famose, non compaiono, ma è importante sapere che ci sono state, che hanno aiutato. Quindi si sta ricostituendo questa sorta di cerchio di donne anche tra le antenate, con le madri e le sorelle. C'era la sorella di Jane Austen, la sorella di Virginia Woolf, stanno arrivando tutte quante pian piano. Ecco, le donne che hanno potuto studiare a partire dal 1800 più o meno si fanno portavoci dei diritti delle altre donne. È qui che comincia a crearsi il cerchio, a ricrearsi coscientemente il cerchio, perché le donne di una certa cultura si rendevano conto che si mettevano a disposizione delle donne del popolo per far sì che l'emancipazione, che la libertà, che la libertà fosse a disposizione anche delle donne del popolo, che ovviamente non avendo istruzione avevano solo il loro istinto su cui contare. Quindi è già un movimento di sorellanza più o meno riconosciuto, attraverso il quale ognuna porta nel cerchio quello che ha. Chi ha la cultura porta quella, perché la cultura dà sicurezza, dà la visione, dà la lucidità, dà la capacità di lottare per i propri ideali. Diceva, scriveva Emilia Pardo Bazán, la donna è assolutamente ignorante, perché alle donne non è richiesta cultura, ma solo una superficiale formazione che salvi le apparenze di chi? Della famiglia, chiaramente, del marito, no? Una donna che sapeva ricevere, che sapeva fare conversazione, questo era tutto quello che veniva richiesto. E quindi che le renda, sentite che è straordinaria questa donna, presentabili come ornamento sociale. Lei era già cosciente, guardate che in Spagna non era facile, cioè la Francia e l'Inghilterra erano privilegiate perché c'era una classe femminile, un movimento femminile molto più forte. La Spagna era arretratissima come l'Italia, facevano fatica le donne, cioè c'era molto più forte la mano del cattolicesimo e le donne facevano più fatica a farsi sentire, dovevano lottare molto di più. Lei diceva, è ingiusto che agli uomini sia concessa la formazione per giungere a una professione, mentre alle donne soltanto un'infarinatura superficiale. Giusto per mantenere l'assunto che le donne sono inferiori e incapaci di pensare. Nulla di meglio per mantenere questa convinzione che serrar loro le porte del sapere. Quindi lei era già consapevole di questo, no? Che poi noi abbiamo comunque saputo meglio e sviluppato meglio nello stupendissimo libro Il calice e la spada, o La spada e il calice, non ricordo in che ordine, nel titolo di Riane Heisler, dove si viene spiegato molto bene quanto ha partito il progetto di togliere la cultura e lo studio alle donne per far sì che via via si sentissero sempre meno importanti, sempre meno all'altezza. Però diciamo che nel 1850 in Spagna era sicuramente molto avanti questa donna a pensare così. Apparteneva oltretutto alla borghesia di provincia, quindi per lei era doppiamente difficile, non era a Madrid, lei era alla Corugna, quindi non era aiutata neanche dai movimenti intellettuali. Fece un buon matrimonio, questo le giovò, perché si trasferì insieme al marito a Madrid e lì poté cominciare non solo a frequentare i circoli letterari, lei non andava ai ricevimenti, non le interessava, andava ai circoli letterari e soprattutto andava alle riunioni del Parlamento, perché aveva capito che bisognava occuparsi di politica per riuscire a cambiare le cose. Poté viaggiare grazie al fatto che aveva denaro comunque, quindi visitare Londra, Vienna, Parigi, soprattutto Parigi, che era in quel momento la culla del rinnovamento, dove lei conobbe gli scrittori naturalisti e portò il naturalismo in Spagna. Nel 1882 pubblicò una serie di articoli che furono poi riuniti in un libro che divenne uno scandalo, La Question Palpitante si chiama, che la trasformò in una persona non gradita al governo, non per il contenuto di questo libro, ma perché era stato scritto da una donna. E infatti in questo libro lei prende la difesa del naturalismo, ossia della descrizione in arte delle cose come sono, non con stereotipi simbolici di sogno, non la donna angelicata. Che non fa nient'altro che ratificare lo stereotipo della donna debole. Lei, nei suoi libri, nei suoi articoli, le protagoniste dei suoi romanzi, ne scrisse tanti, scriveva di operaie, le sigaraie. Secondo me, Carmen si è ispirata a lei. Sapete il romanzo Carmen, da cui poi l'opera. Carmen era una sigaraia, lavorava in una fabbrica di sigarette. Secondo me, si è ispirata da lì. Quindi, le sue donne erano operaie, bevevano, si ubriacavano. In sintonia con la filosofia e lo stile naturalistico, raccontiamo le cose come stiamo, non come ci immaginiamo che dovrebbero essere. Questo la trasformò in persona non gradita al governo. E il marito le chiese il divorzio perché lei era una donna troppo indipendente, tra l'altro ebbe problemi anche con la sua famiglia di origine, rinunciò all'eredità. Quindi fu assolutamente coerente nel suo percorso, rinunciò all'eredità e visse della sua penna, visse dei suoi scritti. Si separò però abbastanza amichevolmente dal marito e ebbe da lì poi una relazione ventennale con un poeta, Benito Pérez Galdós, con il quale ebbe questa relazione che sapevano tutti. So, lei, tra l'altro, non c'era il divorzio in Spagna, quindi lei, oltre ad essere una donna in Spagna, quindi, cioè, immaginate che a Madrid c'era l'Escorial, l'Escorial, stiamo parlando oddio, come si chiama? Mi viene in mente Federico II, ma non sono sicura che fosse Federico, il re, quello dell'Inquisizione, quello tremendo, Enrico, ma niente, in questo momento ho un black. Niente, comunque c'erano i gesuiti, c'era diciamo il braccio, Felipe, scusa, Felipe II, Filippo II, il grande sostenitore dell'Inquisizione, colui che divenne il braccio esecutivo dell'Inquisizione. Ed era lì, quindi a Madrid non era facile comportarsi e vivere come fece lei. Lei non solo rinunciò all'eredità, visse della sua penna, ma visse una relazione alla luce del sole, lei sposata con un altro uomo. E quindi era una donna estremamente forte, ma coerente, coraggiosissima. Una cosa divertente che le accadde, a 37 anni tradì questo suo amante e gli scrisse poi una lettera che in qualche modo poi ci è arrivata, una lettera nel quale lei si giustificava, non gli chiedeva scusa, ma si giustificava dicendo che era stato un momento di debolezza. Quindi, cioè, si è comportata esattamente come si sarebbe comportato un uomo. Per gli uomini è assolutamente normale tradire e poi dire: ah, è stato un momento di debolezza, ero ubriaco, non sapevo quello che stavo facendo. Ma che lo abbia fatto una donna e poi lo abbia ammesso candidamente così in una lettera, ha fatto decisamente scalpore. Ha scritto, ecco, qui ho saggi, romanzi, racconti, libri di gastronomia e saggi per la stampa spagnola e straniera e circa 1500 articoli in cui parlava dell'attualità senza peli sulla lingua. Era veramente una donna che non le mandava a dire a nessuno. Si servì tranquillamente della sua posizione sociale per promuovere e difendere l'emancipazione femminile e il femminismo e non ne fece mai mistero. Fu la prima donna ad essere presidente della sezione letteratura dell'Università di Madrid. Chiese di entrare nella Reale Accademia della Lingua Spagnola, ma non le fu consentito perché per statuto solo gli uomini potevano entrare. Una cosa che viene considerata ormai diffusamente la vergogna della letteratura spagnola, un capitolo vergognoso della cultura spagnola, è che nella lettera di risposta le fu detto che gli scranni dove si sedevano erano molto antichi e non avrebbero potuto accogliere la sua circonferenza. Era grassa. Emilia Pardo Bazán negli ultimi anni della sua esistenza era obesa. Quindi le risposero in questa maniera veramente meschina e oggi il presidente della Real Academia Gallega, José Ramón Barreiro, la definisce invece una donna di una cultura straordinaria e una delle più grandi scrittrici europee. E dice che se Emilia Pardo Bazán fosse stata inglese o francese avrebbe monumenti in tutte le piazze, perché ai suoi tempi fu una delle più grandi scrittrici europee. Noi non l'abbiamo mai sentita nominare. No, i nostri testi di letteratura, quel poco che dicono delle donne, qualcosina, parlano per lo più delle francesi, degli inglesi, le spagnole proprio. Infatti io me la faccio proprio, me la prendo come un punto d'onore, quello di riuscire a inserire nei programmi nostri anche qualche antenata di ispanofona e anche dell'America Latina, perché anche in America Latina ci sono state delle donne straordinarie che proprio vengono completamente ignorate. Ecco, Emilia fu la prima scrittrice professionista spagnola, visse del suo lavoro, fu una grande lavoratrice instancabile, ebbe successo e riconoscimenti da tutto il mondo, tranne che dalla Real Accademia di Madrid. La sua novella, principale, la più conosciuta, che si intitola La Tribuna, parla per la prima volta nella letteratura spagnola dei maltrattamenti maschili alle donne, maltrattamenti che le donne subivano dai loro uomini, compagni, padri, e lei scrisse: invece di proteggerla, la legge obbliga la donna a vivere come moglie del suo assassino. Questo avveniva alla fine dell'Ottocento in Spagna, quindi sicuramente era un'innovatrice. Lasciò il corpo a 70 anni e, rifiutando il ruolo impostole dalla società, divenne guida per altre donne che volevano liberarsi, ma visse una vita bella, ricca, intensa, e quando lasciò il corpo era, per fortuna, attorniata dalle sue discepole e discepoli che le manifestarono tutto il loro amore, tutto il loro sostegno. 20 anni dopo nasce a Vienna, sta per finire il tempo, per cui quando scade tra 10 minuti poi rientriamo subito con gli stessi codici. A Vienna, Emily Flöge, una donna che fisicamente è tutto l'opposto di Emilia Pardo Bazán, anche se a me hanno detto: beh, ma noi ci chiamiamo tutte e due Emilia, quindi noi vogliamo essere presi in considerazione insieme. Emily Flöge invece era una donna alta, longilinea, molto elegante, come spesso sono le donne viennesi, hanno quest'aura imperiale, no? Questo modo molto, molto elegante, molto aristocratico. Anche lei è una donna che ha contribuito fortemente alla libertà e all'emancipazione, anche se non con la penna, ma con i suoi modelli. Quando nacque, Emilia Pardo Bazán aveva 23 anni e già scriveva. Emily Flöge aveva 9 anni più di Coco Chanel, lei la conobbe a Parigi, anche se Coco non era ancora Chanel quando si incontrarono. Nacque a Vienna, quindi negli anni 70 dell'Ottocento. Collaborò con la sorella Helene, come Coco e Adrienne, nella sartoria, e sposò la sorella di Emily aveva sposato il fratello di Gustav Klimt, il pittore. E fu così che Emily Flöge, 17enne, conobbe Klimt, che aveva già 30 anni, ma fin da subito tra i due nacque una forte empatia, una forte attrazione. Soprattutto stilistica, soprattutto artistica. Klimt stimava moltissimo il genio creativo di Emily, anche se noi la conosciamo pochissimo, quasi niente, e collaborarono quindi dal punto di vista artistico. Non si sa se furono una coppia more uxorio, perché non ci sono testimonianze in questo senso. Alcuni sostengono che ebbero così una relazione platonica, ma a noi non interessa. Quello che ci interessa è che Klimt spesso disegnava i motivi dei tessuti che lei usava o i gioielli, e lei ispirava e ha ispirato i più bei quadri di Klimt. Pare che la protagonista del bacio sia lei, con il suo essere, con il suo essere elegante, con il suo essere sottile. Quindi con la sorella crearono il Salon Schwester Flöge, proprio nel centro di Vienna, dove facevano alta sartoria. Però i modelli più trasgressivi di Emily non venivano venduti perché erano troppo innovativi. Quindi ebbero molto successo, ma con i modelli più classici. Ciò nonostante, Emily credeva nel suo sogno, nel suo obiettivo di permettere alle donne di essere eleganti senza costrizioni. Questo l'abbiamo già visto un po' in Coco Chanel. Quando noi parliamo delle stiliste, non ne parliamo in termini così frivoli, ma ne parliamo in termini di liberazione ed emancipazione della donna, perché anche Emily, dall'altra parte del confine, contribuì moltissimo con i suoi modelli, che erano a vita larga, con le spalle morbide, senza i corsetti, erano queste tuniche con delle giacche lunghe, coloratissime, quasi ricordavano un po' i pepli, le tuniche dell'antica Grecia. Contribuì alla liberazione fisica delle donne, e addirittura alla fine dell'Ottocento si creò addirittura a Berlino un'associazione per la liberazione delle donne, dell'abbigliamento delle donne, in maniera che le donne potessero fare sport, potessero portare i pantaloni, e questo ovviamente ecco, si chiamava Reformbekleidung, cioè la riforma dell'abbigliamento, che nacque sotto un forte influsso femminista, dove gli abiti erano ampi. Furono introdotti, come ho detto, i pantaloni e furono assolutamente aboliti da Emily i corsetti. Abbiamo già visto in Coco Chanel, ma Emily lo fece prima, anche se questa cosa è meno risaputa. Perché abbiamo visto, quando abbiamo parlato di Coco Chanel, il danno tremendo a livello fisico che questi corsetti facevano, perché stringevano le vite a 30 centimetri, 20 centimetri, quindi gli organi, le viscere, dovevano, calavano verso il basso o verso l'alto, e le donne, per non sfigurare, portavano questi corsetti anche quando erano incinte, quindi nascevano molti bambini malformati. Quindi non era proprio solo una questione di comodità, era una questione di salute, togliere questi strumenti di tortura che erano i corsetti. Emily lo fece e fu un punto di riferimento per le femministe, non soltanto dal punto di vista artistico e stilistico, ma anche dal punto di vista manageriale, perché lei e la sorella condussero questa maison, potremmo chiamarla, anche se a Vienna non si chiamava così, ed ebbero molto successo. Poi si sapeva, tra l'altro, che Klimt collaborava con lei. Fino a che non furono costrette a chiudere a causa dell'Anschluss, cioè dell'annessione dell'Austria alla Germania durante il periodo nazista, per cui poi il suo atelier andò a fuoco, e quindi praticamente Emilie Flöge perse tutto quello che aveva e lasciò il corpo a 84 anni, quasi sconosciuta, perché poi tutto ciò che era Germania e Austria venne praticamente cancellato dalla storia, perché ricordava il nazismo, quindi anche le cose buone che erano state fatte. Quindi a 78 anni si spense in silenzio e non si parlò più di lei, fino a che Valentino non la recuperò e non le dedicò una sfilata, recuperando i suoi modelli e ispirandosi per farne di nuovi. Quello che a noi interessa è, a parte l'emancipazione che lei offrì alle donne, il fatto che non fu mai la pupa del pittore, non fu mai, no, non, non si, come successe a tante altre artiste, pittrici, che si sono perse la loro identità o non sono state tramandate nella storia se non come muse o amanti dei pittori. Abbiamo visto Mary Cassatt, è stata tramandata come amante di Degas, Suzanne Valadon come amante di Toulouse-Lautrec o di Renoir, cioè tutte le grandi pittrici le conosciamo come amanti di o modelle di. Lei riuscì invece a mantenere la sua identità, anche se posò per Klimt, e questa è una cosa che mi riempie di una soddisfazione enorme. Ecco. Sto andando troppo veloce, io spero che riusciate a seguire, perché dobbiamo ancora parlare di Sibilla Aleramo e poi dobbiamo fare la meditazione. Vado troppo veloce o riuscite a seguire? Ecco. Dunque, Sibilla Aleramo nacque nel 1876, pochi anni dopo Emilie Flöge. Sono più o meno, le tre donne sono nate nell'arco di un trentennio. Nacque in Piemonte, visse in tanti posti diversi. Io sto leggendo in questo momento Una donna, il suo primo romanzo, che poi è anche un diario autobiografico per il canale La Scuola delle Donne, quindi la sto conoscendo via via. Avevo scritto, perché avevo letto diverse cose critiche su di lei, e nella presentazione, prima di iniziare a leggere il romanzo, avevo scritto che era stata costretta a un matrimonio riparatore dal padre. Ma in realtà non è così, perché il padre non sapeva che lei fosse incinta, cioè che lei fosse stata abusata. Quello che sto scoprendo praticamente leggendo il suo romanzo autobiografico, beh, sappiamo che a 15 anni cominciò a ricevere le attenzioni, così si dice in linguaggio patriarcale, quando una viene abusata, ricevere le attenzioni di. Lei, il papà aveva una fabbrica, una vetreria, era un ingegnere, era una donna molto, molto emotiva, timida, addolorata, io mi sto rendendo conto leggendo il suo diario che la madre era una donna profondamente addolorata perché probabilmente era delusa dal matrimonio con quest'uomo che era abbastanza arrogante. Quindi chi teneva le redini della famiglia era lei, era la ragazzina Sibilla, che all'epoca si chiamava ancora Marta Faggio. Sibilla Leramo è il suo nom de plume, che già a 12-13 anni mandava avanti la casa perché la madre aveva frequenti crisi depressive, aveva tentato il suicidio. Lei si occupava dei fratelli, si occupava della casa e lavorava in fabbrica con il padre. Il padre l'aveva assunta in fabbrica, lei lavorava come dipendente ed era felice di questo lavoro, anche se questo comportò che non potesse seguire un corso di studi regolare. Ma lei non voleva sposarsi, era felice di lavorare, portava i capelli corti, era una ragazza di grande carattere, di grande forza, che non si faceva minimamente spaventare da nessuno e che diceva: io non mi voglio sposare, io voglio lavorare, voglio guadagnarmi la mia vita. Successe purtroppo che a un certo punto, verso i 15 anni, il padre cominciò ad essere sempre più assente, il padre che fino a quel momento l'aveva portata in palmo di mano, cominciò ad essere sempre più assente, poi si scoprì che aveva un amante e lei si sentì abbandonata da questo padre che era il suo punto di riferimento, che lei adorava, e si attaccò a un ragazzo poco più grande di lei che lavorava nella fabbrica, un ragazzo del popolo, e loro avevano insomma un'estrazione sociale, il padre era ingegnere, quindi era laureato, ex docente, quindi, e loro venivano dal nord, dalla provincia di Alessandro, da Alessandro, dalla provincia non ricordo, si trasferirono in un paesino delle Marche dove il padre impiantò la fabbrica, perciò c'erano questi lavoranti che erano gente del popolo, insomma la guardavano un attimo strana perché lei era una ragazzina e si comportava come un maschio, andava a nuotare da sola in spiaggia, girava per le strade, andava a passeggiare da sola, senza una scorta, senza una guida. E lei era fierissima della sua libertà fisica, mentale e spirituale. Quando a un certo punto il padre si stacca da lei, lei si attacca per disperazione a questo ragazzo e cede. Cede, dal punto di vista, come posso dire, emozionale. Aveva bisogno di attaccarsi a qualcuno perché aveva scoperto che il padre tradiva la madre e oltretutto il padre non la considerava più, le aveva di punto in bianco tolto completamente il suo affetto. Quindi lei dà confidenza a questo ragazzo che dopo un po' abusa. Nel diario lei non specifica i dettagli del fatto, ma si capisce chiaramente che lei ne soffrì fisicamente, perché io ho capito proprio che sentì male, chiaramente aveva 15-16 anni e non, dopodiché cercò di rifiutarsi, non voleva più saperne di questa cosa. Ma per ripicca al padre, invece, siccome il ragazzo non le dava tregua, le stava addosso, lei per ripicca al padre, per vendetta, per il fatto che il padre aveva appunto una sua vita fuori dalla famiglia e nel paese si sapeva, lo sapevano tutti, lei fa in modo che il padre le dia il permesso di sposare questo ragazzo. Ma il padre non sapeva che lei aveva già avuto rapporti con questo ragazzo. Quindi lei avrebbe potuto anche far finta di niente, invece lo ha voluto scrivere, questa è stata una cosa secondo me estremamente coraggiosa. Nel suo diario una donna, è lei che lo racconta, che aveva subito questo affronto, questo disonore, no? Lei non parla di disonore, lei semmai è più indignata per come viene trattata. Pensate, avrebbe tranquillamente potuto fare a meno di raccontarcelo, pensando quali erano i tempi, e invece ce l'ho voluto raccontare perché si sapesse che cosa succedeva alle ragazze. So che Sibilla Aleramo è stata considerata una pietra miliare della letteratura femminista e che per la prima volta lei scrive in forma di diario un romanzo. Lei è la prima che dà, diciamo, al diario la dignità della forma letteraria romanzesca. Il marito poi è un brutto, è un violento, la contrasta, la contraddice, quindi lei dopo un po' lo molla, perché lui oltretutto si erano trasferiti a Milano, lei a Milano aveva trovato la sua dimensione politica, frequentava circoli femministi, gruppi femministi, era diventata una militante, quindi aveva trovato il modo di mettere a frutto la sua fierezza, il suo coraggio, i suoi ideali di libertà. Quando il marito decide di ritornare nelle Marche, lei lo pianta. E però deve lasciare anche il figlioletto che nel frattempo era nato perché lei abbandonava il tetto coniugale, quindi dovette abbandonare anche il bambino, ma per lei fu più importante recuperare la sua libertà, lottare per la sua libertà e per le altre donne, e quindi cioè lei veramente ha rinunciato al bambino per poter, e credo che le sia pesato perché lei lo dice, lo racconta, che aveva nostalgia di questo bambino. So che può sembrare per i ben pensanti una cosa atroce che una donna abbandoni il figlio per seguire i suoi ideali, ma non è l'unica. Ci sono state donne che hanno avuto questo coraggio per poter lasciare a noi il loro racconto, la loro eredità. E a me non sembra affatto una donna fragile e insicura, come viene descritta dalla narrazione patriarcale androcentrica che parla di lei, che la descrive appunto come una donna disturbata perché ebbe molti amanti sempre più giovani, perché non aveva un luogo fisso, viaggiava tanto. Io credo che lei abbia avuto tanti amanti perché cercava un ideale maschile che non trovò mai, come George Sand, mi ricorda molto George Sand e anche Ninon de l'Enclos, tutte donne tra l'altro definite avventuriere perché si permisero semplicemente di fare quello che per gli uomini era assolutamente normale, cioè avere amanti. D'Annunzio, per esempio, che disse tranquillamente: a me non piace più di tanto, e a me verrebbe da dire: ma a noi quanto ce ne frega di quello che pensi tu di Sibilla Aleramo. A me D'Annunzio mi è sempre stato tanto antipatico, fin da quando mi costringevano a studiarlo da ragazzina, l'ho proprio detestato fin dall'inizio, sto pallone gonfiato maschilista tremendo che quasi fece uscire pazza la povera Eleonora Duse, perché era un manipolatore, era un uomo veramente perfido. Ma lui millantava le sue avventure, le sue amanti, mentre le donne, lei, che fu contemporanea di lui e anche connazionale, no, lei era considerata un'avventuriera perché alle donne non era consentito. E le donne che ebbero il coraggio di vivere come gli uomini, cioè liberamente, furono sempre considerate delle poco di buono. Però io non la sento né fragile né insicura, io sento una grandissima forza, un grandissimo coraggio in quello che lei accettò e decise di fare. Quindi cercò di vivere dei suoi scritti, della sua penna, anche se l'intelligenza italiana non le conferì mai il ruolo di scrittrice, non la perdonò mai, non la riconobbe mai, tranne proprio negli ultimi anni della sua vita. Si trasferì a Roma dopo che lasciò il marito e visse un po' vagabondando nelle case degli amici, non aveva una fissa dimora, ma sempre, sempre si adoperò in ambito sociale. A Roma, per esempio, si occupò dei bambini, nello stesso periodo in cui lo faceva Maria Montessori, dei bambini poveri. E nel suo romanzo una donna racconta la vicenda della sua stessa vita. Come in nome dell'affermazione, scrive lei, di una vita libera e consapevole e contro la costrizione e l'umiliazione dell'esistenza che un'ipocrita ideologia del sacrificio intende imporre alle donne. Ecco, negli ultimi anni della sua, ecco, alcuni uomini, questo è interessante, alcuni uomini erano stupiti di poter parlare con lei da pari a pari. E lei faceva loro notare che era penoso per una donna come lei doversi adattare, lei dover adattare la sua intelligenza e il suo linguaggio a quelli maschili perché loro potessero capire. Quindi ribaltò la situazione, questo è veramente meraviglioso. E un'altra cosa interessante che scrisse Sibilla, che nel frattempo era diventata Sibilla Aleramo, nella figura dell'androgino i poli opposti e complementari del maschile e del femminile trovano la loro interezza, ma, e questo è straordinario perché lei lo nota, ma questa riunificazione avviene sulla base del sesso dominante, quello maschile che si è posto come misura e soggetto della storia. Cioè, quando noi parliamo di androgenia o di riunificazione del maschile e del femminile, forse noi adesso no, perché stiamo facendo un cammino di risveglio delle memorie femminili, ma fino a poco tempo fa, anche in alchimia, quando si parlava della riunificazione del maschile e del femminile, lo si faceva sempre considerando il femminile o la femminilità secondo un'ottica maschile. Quindi, che cos'era questo femminile che si riunificava col maschile nell'androgenia? Era la visione maschile del femminile. Non so se riuscite a seguire il gioco di parole. Lei se ne accorse alla fine dell'Ottocento, primi del Novecento, fu una grande, veramente una grandissima, che comunque ancora oggi è considerata solamente dalla letteratura femminile e dalla letteratura femminista, perché comunque la letteratura maschile androcentrica ancora non la considera una grande scrittrice. La sua fama è più dovuta, un po' come quella di George Sand o di Lady Hamilton, alla vita, tra virgolette, dissoluta, la vita libera che vissero, più che al valore delle cose che io devo dire che invece il suo diario, Una donna, lo sto veramente trovando così ricco, lo considero un grandissimo onore poter dar voce a questa donna quando faccio le mie registrazioni, un giorno sì, un giorno no, perché penso quante donne ancora oggi si possono identificare con quello che lei scrisse. Ecco, arrivò ad essere ultrasessantenne, sola, con pochissimi soldi, accettò l'ospitalità di un'altra grande scrittrice, militante, femminista italiana, Alba de Céspedes, di cui prossimamente leggerò un romanzo, che la ospitò in casa sua e la pubblicò sul suo giornale Il Mercurio. Ma Sibilla ormai era in là con gli anni, era una donna bellissima, fu una donna bellissima, lasciò il corpo a 84 anni, sempre giudicata e condannata fino alla fine, come tutte le donne che ebbero il coraggio di pretendere per sé, nella loro vita e non soltanto dopo la morte, la libertà con cui potevano vivere gli uomini.